Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. 8:33 minuti, un last minute per questa vigilia di weekend che già dà inizio alla prossima settimana, per un inizio appunto, una mostra, un'esposizione e un percorso, grazie al comitato di ricerca Il Pioniere che insieme a Radio Città Fujiko, una convivenza costante che tra l'altro in maniera molto carica di entusiasmo ha portato ricerca all'interno della grafica, dell'illustrazione e del fumetto. Dopo la sala borsa si arriva al mercato sonato con un'organizzazione portata dall'Orchestra Senza Spine, il CRAF ovviamente Radio Città Fujiko, da lunedì 22 aprile alla domenica 5 maggio una mostra di tavole d'autore per la libertà di informazione. Mercato sonato via Tartini 3, per dare indicazione anche logistica, anche se ovviamente immagino che conosciate la sede espositiva e anche la sede per quanto riguarda concerti, dibattiti e motivi di incontro. Questa volta sarà appunto l'esposizione curata dal CRAF che trovate anche nei nostri spot all'interno di Radio Città Fujiko, visto che la collaborazione è veramente stretta e costante. Troveremo delle voci che ne daranno anticipazione e ricordo che dalle 19:30 vi sarà un aperitivo di inaugurazione e presentazione stessa dell'esposizione. Intanto le voci che troveremo Giuseppe Ciarallo, curatore della mostra, e Davide Morena, con quale cominceremo la conversazione, presidente della Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto di Firenze. Intervistato con carica e entusiasmo da Morena Moretti del CRAF, troviamo un inizio per quello che sarà l'incontro di apertura e poi ricordo che l'esposizione sarà portata all'interno, oltre che del mercato sonato, a un arrivo fino alla domenica 5 maggio per una mostra di tavole d'autore per la libertà di informazione. Ascoltiamo quindi questa intervista e poi torniamo in diretta per dare altre informazioni a proposito della serata di lunedì 22 a partire dalle 19:30. Davide, come nasce questa idea di questa mostra e anche del catalogo e anche quando? Di solito abbiamo ogni anno, qui comincio già un po' a rispondere alla tua domanda, facciamo una piccola fiera del fumetto indipendente all'interno della festa annuale dell'Arci di Firenze, che come oltre alla fiera ci sono degli incontri, degli appuntamenti con autori, insomma quello che di solito si fa in questo tipo di iniziative. E quest'anno il nostro giorno di conferenza, di convegno, di incontro l'abbiamo dedicato alla satira, abbiamo pensato che fosse un buon momento, interessante, ed è stato in quell'occasione che io ho chiesto a Giuseppe Ciarallo di intervenire, insomma se aveva voglia di coordinare questa chiacchierata con diversi autori che abbiamo fatto e che devo dire è stata molto particolare. Un momento insperato anche rispetto ai numeri, già c'era il caldo dell'estate, la gente era già andata via. E devo dire che questa cosa insomma è stata un po' il primo momento in cui ci ha fatto pensare che forse ci fosse spazio per tornare a parlarne in maniera anche un pochino più creativa, e al che abbiamo cominciato un po' a ragionare su cosa era possibile fare, e l'idea è stata quindi quella di creare una mostra e ovviamente in questo senso poi farla diventare un catalogo. E nel corso dei mesi si è concretizzata nell'eco del padrone di cui parlavo. Quindi questo tema, che è la satira verso il potere, ma in questo caso proprio che diventa una critica di questo rapporto che Giuseppe Ciarallo nella sua introduzione definisce Giuseppe un rapporto perverso che dura da lungo tempo, forse c'è sempre stato, che oggi è ancora assolutamente visibile se non addirittura più grave come rapporto e come relazione, e anche poi che coinvolge un po' tutti i media e tutto il mondo. È una visione che sembra un po' pessimistica, ma è proprio così? Ma in realtà il potere ha preso da Orwell il suo libro profetico 1984 come un manuale di istruzione, e invece voleva essere una denuncia, attenti a quello che, perché in effetti è stato fatto proprio questo, dai media soprattutto, supini al potere. È stato fatto quello che appunto Orwell prevedeva, ma anche mi piace sempre citare Gramsci, quale diceva: stiamo attenti perché la vera Babele non è laddove ognuno parla una lingua diversa, ma dove tutti parliamo la stessa lingua, ma diamo alle parole dei significati diversi. È lì la vera Babele, diceva Gramsci. E in effetti questo è accaduto attraverso, soprattutto e per colpa dei media, appunto supini al potere. Quindi la guerra è diventata missione di pace, la strage di migranti è diventata respingimento, quindi i termini soft, le crisi diventano opportunità, gli stessi manganelli, tanto tristemente attuali, li chiamano distanziatori. Quindi già attraverso l'uso del vocabolario vediamo come il potere riesce a trasformare anche il linguaggio delle persone, e trasformando il linguaggio delle persone si trasforma anche la visione della società. The saying goes, you shouldn't speak before you think. But on those days when all your plans begin to sink, you slowly lose your head, frustration makes you cross that bridge that got its name when judgment sound is lost. You should never, never, never say never, 'cause you know that shit comes back to you. Never, never, never say never, 'cause you know that shit comes back to you. Are inclined to voice out our opinions, and secondly within the frames of our dominions. To influence is nice, to force has no fruition. So take time out before your mouth makes your decision. You should never, never, never say never, 'cause you know that shit comes back to you. Never. Never say never, 'cause you know that shit comes back to you. The boss is acting up, he could be wrong, but hold your tongue, because your paycheck could be gone. Consider all the angles of the storyline, and in the end yours is a wisdom so refined. You know that never, never say never, 'cause you know that shit comes back to you. Never, never, that never say never, 'cause you know that shit comes back to you. Nuovamente in diretta per questa vigilia di weekend, per presentare l'inizio della settimana prossima, lunedì 22 aprile alle ore 19:30, la presentazione dell'esposizione L'eco del padrone con Davide Morena, da cui abbiamo ascoltato la prima parte di intervista. Poi avremo il curatore dell'esposizione, Giuseppe Ciarallo, sempre intervistato da Morena Moretti del Pioniere. E interessante la approfondimento tramite le immagini per quello che sono contenuti di parole diventate Babele, dove non è la differenza tra i linguaggi ma la differenza tra i contenuti, ad esempio, come è stato riportato da Davide Morena, il contenuto di missione di pace che poi è portato con le bombe. E intanto che troviamo, oltre che analisi purtroppo preoccupante nell'eco del padrone, in un capitalismo che con la guerra sta continuando a devastare, e attraverso attraverso un'informazione ben, tra virgolette, mirata, a darne invece un'interpretazione voluta più che criticabile e discussa per quanto riguarda invece una diffusione che deve diventare più eterogenea possibile perché arrivi nella maniera poi più consueta e più come deve essere per delle orecchie attente. La possibilità tra le immagini in questa esposizione di avere questi concetti e queste interpretazioni è un motivo di percorso importante, oltre che di estetica, attraverso anche un catalogo che è molto molto ricco e denso e curato. Con Giuseppe Ciarallo, a proposito di curatela, curatore dell'esposizione che ho appena anticipato, aggiungo anche che vi sarà Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko, Le Onde Ribelli, il suo lavoro che ha dato percorso storico nel concetto di radio e con Le Onde Ribelli e con le immagini che riportano l'eco del padrone, l'inizio settimana, come ho detto, lunedì 22 dalle 19:30 con aperitivo di inaugurazione e presentazione dell'esposizione curata da Giuseppe Ciarallo. Giuseppe Ciarallo, ti chiedo, gli autori di satira oggi, di vignette, hanno delle difficoltà? Quanto vengono censurati e anche quanto si autocensurano per rispondere anche a temi come quelli, o modelli come quelli del politicamente corretto, per esempio? Sì, questo è un problema molto grande che ovviamente ogni autore affronta attraverso la propria sensibilità. Non c'è dubbio che al potere da sempre piace la satira che non nuoce. Quindi quando il politico o il potente di turno ride, sorride, si diverte alla satira che viene fatta della sua persona o dei suoi comportamenti, significa che qualcosa non funziona, il bagaglino non è satira, ecco, parliamoci chiaro e tondo. È ovvio che invece quando nascono delle discussioni seno al popolo, alla gente che comunque fruisce della vignetta, del fumetto, dell'illustrazione, allora la satira ha colto nel suo segno. È ovvio che oggi sono sempre più frequenti le denunce, per esempio, nei confronti degli autori di satira. Alcuni autori hanno avuto problemi anche più grandi, per esempio quando sono andati a toccare delle tematiche legate alla religione o alle religioni monoteiste, che siano esse il cristianesimo, l'ebraismo o l'islamismo. Ecco, quindi il problema della censura c'è sicuramente, ma non c'è dubbio, non v'è dubbio che anche il problema dell'autocensura è molto molto frequente, molto presente. Ripeto, è una questione solo ed esclusivamente di sensibilità del singolo autore, però il pericolo c'è, non c'è dubbio. Posso aggiungere una cosa al riguardo? Proprio perché mi suggeriva quello che ha detto Giuseppe, ora una riflessione di Lombardi, uno degli autori che ha anche lui omaggiato con questo. Lui per esempio dice una cosa molto interessante, che il vignettista satirico tra l'altro non ha nemmeno quel minimo di protezione formale o di fatto che ha il giornalista, quindi non può diventare non è un giornalista automaticamente, il che comunque diventa problematico in un certo senso, diventa anche una delegittimazione su quel fronte. Se già per un giornalista può bastare veramente poco a chi ha soldi e potere per annullarlo, immaginiamoci a chi non ha nemmeno quella tutela, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista legale, quindi del riconoscimento allargato. Veniamo alla parte dei giornalisti e del giornalismo. Allora, qui riscontriamo davvero una grande subalternità e un conformismo impressionante, soprattutto magari nelle televisioni, anche nei giornali, ma nella parte che riguarda i social, la subalternità e il conformismo ha lo stesso tipo di volto o magari è un po' più sottile, un po' meno evidente? Davide, tu cosa dici? Sai, i social sono una bestia strana, perché chiaramente il potere si è accorto che i social penetrano ovunque, sono economici, sono onnipervasivi, e questa è la grande differenza. E ne abbiamo di motivi di approfondimento, quindi vi do appuntamento lunedì 22 aprile alle ore 19:30, Mercato Sonato, via Tartini 3, L'Eco del Padrone. let's do yo. The boogie is back again. Ci sarà anche un po' di musica durante l'aperitivo con la musica del Breakfast Club. Troverete anche i Kool and the Gang. Feel the funk, yo. E in conclusione, il venerdì vigilia di Weekend, il Breakfast Club termina qui, vi dà appuntamento a lunedì con i magazine, iniziamo con la colazione in diretta, ma intanto abbiamo il Weekend che speriamo permanga di primavera, eh. A breve di per enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, poi abbiamo la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, alle 11.30 Jazz Live, Jazz Club Ferrara, a seguire Camera Jazz con il concerto di Daniela Firpo che sarà presentato appunto dalla stessa protagonista, in conclusione la penultima serata per Paradiso Jazz a San Lazzaro. Per la prima colazione in diretta, oltre che un caloroso abbraccio e l'augurio di un buonissimo weekend, io vi aspetto mattiniere e mattinieri alle ore 7 di lunedì 22. Intanto un buonissimo weekend, ciao a tutte e ciao a tutti, dal vostro William Piana.